Siamo tutti fratelli di amore e di libertà. Bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti insieme per l'eternità. Vita, vita, vita, balla, balla per noi. Vola, vola l'anima.